Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto da Francesco Galante e un saluto, lo faccio io, al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi andiamo subito dritti su un problema che voi raccontate, che state seguendo, anzi più problemi, perché capita che qualcuno compra un'auto usata e poi si trova dei problemi da risolvere, perché l'auto non è proprio, come dire, perfetta nelle sue condizioni. Sì, come ha detto Francesco, è un problema che abbiamo deciso di entrare nel merito perché ci rendiamo conto come i numeri aumentano e aumentano, è caso di dire, proprio a livello esponenziale. Pensiamo che, per esempio, nella provincia di Venezia, se in tutto il 2014 abbiamo trattato 37 problematiche legate a acquisti di auto usate, quest'anno, nei primi 9 mesi del 2015, le problematiche sono 52, quindi già un aumento del 40%. Un fenomeno che sicuramente è legato molto alla crisi, perché in una situazione generale in cui le persone non hanno più i soldi per comprarsi le auto nuove e cercano di risparmiare qualcosina, anzi risparmiare parecchio comprando auto usate, chiaramente la fregatura non può che, in termini di numeri assoluti, aumentare, e ragion per cui l'Adico oggi si trova con te a ragionare su quelle che sono state un po' le casistiche e le problematiche legate a questo fenomeno. Volevo sapere da te, intanto, chi ha comprato un'auto usata lo ha fatto attraverso un concessionario, almeno quelli che si sono rivolti a voi, oppure era una trattativa privata? Le trattative possono essere di due tipi, tra privati o non. Certamente l'auto normalmente viene individuata la maggior parte delle volte tramite internet. Credo che chiunque, qualsiasi ascoltatore, conosca ormai certi siti come subito.it, Autoscout, tanto per dirne alcuni, di cui ci sono immagini, condizioni e prezzi. Sono annunci che poi sono presenti un po' in tutta Italia. Sostanzialmente questi sono contatti per la quale avvengono nella maggior parte le casistiche segnalate. Dopodiché c'è sempre la visita presso i concessionari, oppure il contatto direttamente amici, parenti o passaparola, che insomma ci può permettere di venire a conoscenza di quello che potrebbe essere un buon affare, se si rivela tale, oppure di un malaffare nel caso che si scoprono poi i difetti che l'auto può avere. Ecco, io mi ricordo insomma di casi particolari dove addirittura qui proprio nel nord-est, nel nostro Veneto, c'erano dei concessionari che, come dire, ritoccavano il contachilometri, ma questa è solo una delle cose che possono capitare, perché poi difetti ci possono essere nella frizione e tantissime altre cose che magari all'inizio non ci si accorge del difetto o dell'usura insomma del mezzo, e quindi poi nascono i problemi. Allora, il problema dei chilometri taroccati, noi abbiamo registrato che le 52 segnalazioni trattate riguardano il 37% delle casistiche. Poi le rimanenti normalmente riguardano vari problemi, di cui per la maggior parte possiamo dire che il 68% hanno a che fare con i vizi occulti. Vizi occulti si intende quel tipo di vizi che sono stati nascosti e che le persone, appunto, come fate te, hai citato alcuni esempi, hanno avuto occasione di imbattersi quando in prima occasione hanno dovuto recarsi in officina a segnalare appunto dei difetti. E qua parliamo di vari difetti che possono essere appunto addirittura dalle turbine, alle cinghie di distribuzione, ai freni, alla frizione, e chi più ne ha più ne metta, per non parlare di scatole sterze, eccetera. Sono casi poi che sono capitati all'Adico anche, tra virgolette, un po' fuori norma. Se pensiamo alla signora che ha tirato il frenamano di una macchina, il frenamano non ha funzionato quando era in parcheggio, l'auto è andata a sbattere contro per esempio un negozio, come ci sono state altre segnalazioni appunto o casi di persone che hanno avuto ingenti danni per varie migliaia di euro, come cambi automatici, turbine, dove il conto presentato è arrivato a 7-8 mila euro, e altri casi di persone che si hanno, nella prima occasione in cui hanno portato l'auto a fare tagliando, hanno scoperto che appunto i chilometri non erano originali, addirittura un socio venuto a conoscenza che la sua auto era di un tassista, quindi i famosi chilometri dichiarati erano chiaramente impossibili e non veritieri. Certo, allora Carlo, ricordando che ci sono delle leggi che garantiscono la compravendita, no? Quindi se compro un'auto nuova sono garantito 2 anni, se compro un'auto usata c'è 1 anno di garanzia, è giusto? Sul privato l'argomento è molto più delicato perché non c'è la garanzia, il privato non può dare una garanzia sul bene, però non può neanche truffare la persona quando lo vende. Allora diciamo che come regola generale quello che hai detto è giusto sulle nuove, è giusto sull'usato, qualora che le compri su un concessionario, sul privato ma anche in tutte le altre condizioni è sempre bene richiedere, questo è il consiglio che diamo, il documento, diciamo, come noi lo definiamo, di idoneità, cioè cosa? È un certificato di conformità dove una persona cerca di descrivere in maniera precisa, più dettagliata possibile, quelle che sono le condizioni generali dell'auto, in modo che se poi quest'auto non si rivela quanto è stato dichiarato, che la persona che insomma ha venduto l'auto può comunque essere denunciata per truffa, e questo sicuramente può essere un consiglio molto importante, perché si può essere anche arricchito con fotografie o può essere anche arricchito con dichiarazioni che una persona può aver messo in occasione dell'annuncio. Pensiamo a annunci del genere: macchina perfetta, condizioni pari a nuovo, appena tagliandata, cinghia appena rifatta, freni nuove, gomme quasi perfette. Dopo, se scopriamo che le pastiglie non sono quasi nuove ma sono finite, se per esempio le gomme sono da cambiare perché magari risultano che hanno 100.000 km e non sono quelle originali e magari sono induite anziché consumate, via dicendo, ecco, chiaramente chi ha pensato di ingannare a parte acquirente potrebbe trovarsi a risponderne oltre i termini di quella che potrebbe essere una normale garanzia. Ecco Carlo, in chiusura, ricordando che se qualcuno ha dei problemi può rivolgersi all'ADICO, associazione difesaconsumatori.it, il vostro sito. Vale la regola che se io ho un'auto e la sconto particolarmente perché sono un privato e la voglio vendere, scrivere vista e piaciuta, cioè così com'è io te la do, se poi si rompe sono problemi tuoi? Vale, ed è così, purché non tuffiamo la persona. Come ho detto, vista piaciuta sì, ma non rilasciamo dichiarazioni che poi risultano completamente diverse rispetto a quelle che è il bene reale che una persona acquista. Chiarissimo, grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, che ritroviamo in un nuovo appuntamento tra qualche giorno. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.